La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. L'articolo 16 è il quarto articolo che tutela le libertà fondamentali della persona e del cittadino e riguarda la libertà di circolazione e soggiorno. A noi può sembrare una cosa ovvia e scontata che ogni cittadino possa liberamente circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, ma basta fare un paragone con l'Unione Europea per accorgersi che così non è ovunque. In che senso? Noi siamo anche cittadini dell'Unione Europea, questo dal 1992. Basta prendere il nostro passaporto, sul passaporto c'è l'intitolazione sopra all'Unione Europea e sotto allo Stato italiano. Ma come cittadini europei siamo liberi di circolare e soggiornare? Assolutamente no. Siamo liberi di circolare e soggiornare in tutti i paesi dell'Unione per 90 giorni. Dopodiché dobbiamo dimostrare di avere mezzi necessari. E quindi un contratto di lavoro, un contratto di studio, assicurazioni e così via. Invece l'articolo 16 garantisce che il cittadino possa liberamente circolare e soggiornare in qualsiasi parte dello Stato. Lo Stato può limitare queste libertà, ma soltanto per ragioni di sanità o di sicurezza e mai per ragioni politiche. Il secondo comma pone un'altra libertà molto importante, che è il diritto di espatrio. Il cittadino è libero di uscire dal territorio e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge, ovviamente. Anche qui, articolo che ha una forte connotazione storica, perché in tante epoche non c'era la piena libertà di espatrio e la Repubblica italiana invece lo sancisce nella Costituzione, c'è il pieno diritto di uscire dallo Stato. Curiosità storica, quando c'era il servizio militare obbligatorio, ovviamente c'erano limitazioni per i soggetti al servizio militare affinché non espatriassero solo per eludere il servizio militare stesso. Ma questo è conforme a Costituzione, perché la Costituzione prevede che il diritto di espatrio è salvo gli obblighi di legge.